più, oltre che a un dibattito, una presentazione, una discussione, rispetto un attimo a quello che è a livello tecnico, sì, ma a livello anche più ampio, questo referendum, e che appunto rientra in una logica, nella logica, rientra perfettamente nella logica di un governo che da quando si è instaurato punta sulla criminalizzazione, sulla repressione, e questo rientra perfettamente in tutto in questo modello, l'alterazione e la possibilità di manipolare la legge va in supporto a tutto ciò che il governo Meloni sta applicando nelle strade, nel senso di repressione proprio di strada. Il primo DDL sicurezza, poi decreto legge sicurezza e il nuovo che è stato proposto puntano a criminalizzare, a reprimere, a impossibilitare qualsiasi forma di lotta a livello di movimenti, a livello di organizzazioni, ma c'è anche un piano che riguarda le scuole, luogo di riproduzione sociale fondamentale all'interno della nostra società, nelle scuole come nelle università, e si parla anzi proprio di un attacco verso i giovani e le giovani e le loro modalità di espressione, espressione di disagio, espressione di socialità, espressione di dissenso. Adesso la scuola è un, come dicevo prima, un luogo di riproduzione sociale dove le menti, la morale vengono strutturati, e attraverso questo governo vediamo proprio una volontà di ricodificazione sociale attraverso tutti quelli che sono gli elementi di quasi, io la chiamerei, una manipolazione ideologica e mentale. Dopo ne parlerà meglio Federico, però vediamo come l'individualismo e la concorrenza siano promossi in funzione di non permettere di creare poi successivamente al di fuori del contesto scolastico ciò che adesso noi chiamiamo il general intellect, quindi una quasi connessione, un riconoscimento della nostra condizione come collettività, e come la lotta intesa come dissenso, intesa come espressione di questo dissenso, sia attaccata, messa sotto processo, messa in quella luce di negatività necessaria per cui il governo Meloni possa attuare ciò che sta attuando, quindi tutto il concetto di legalità che viene promosso all'interno delle scuole, una legalità fatta apposta a manovra di un governo, oppure proprio come dicevo prima, la criminalizzazione di qualsiasi studentessa o studente che esprime un dissenso, o in campo più generale i giovani e le giovani che esprimono dissenso, che esprimono disagio. Quindi l'abbiamo visto con il decreto Caivano, lo vediamo tuttora con tutta la retorica delle baby gang che sono il male, lo vediamo con il paradigma antifascismo uguale mafia, e questo referendum, l'eventuale vincita, che facciamo corna, e l'eventuale vincita di questo referendum andrebbe a ancora di più calcare quello che è questo sistema. Quindi prendendo anche la legge dalla propria parte in funzione di continuare a criminalizzare, a reprimere, a lasciare campo aperto a tutte quelle soggettività che all'interno delle scuole, come delle strade verso le giovani e i giovani, vogliono uccidere quel sentimento di dissenso, sentimento di disagio, criminalizzando in senso ampio, e quindi andrebbe a supportare Azione Studentesca che vuole schedare professoresse e professori che parlano di antifascismo, che sono antifasciste, schedare quelle e punire ancora più severamente, perché tanto chi può controbattere se la legge è manipolata dal governo? Reprimere ancora più severamente professori e professoresse, secondo per esempio quello che è il DDL Gasparri, che va a uccidere qualsiasi forma di dissenso anche da parte delle professoresse, quindi la non libertà d'espressione all'interno delle scuole, riconoscendo come vero e proprio luogo di indottrinamento la scuola, manipolazione anche mentale e ideologica all'interno delle scuole. Quindi questo referendum non è solo un referendum dato, ma è qualcosa che sta in un contesto molto più ampio rispetto a quello che magari si può percepire e si può vedere, o quello che adesso il governo sta facendo passare a le persone, perché con anni di propaganda per cui il governo diventa un'autorità non contestabile, quello che dice il governo allora è incontestabile, è impossibile non dargli ragione. E questo referendum sta ormai diventando un sì o un no a una dittatura legale, quindi il governo che prende e manipola la legge a suo favore o no. Adesso passo la parola a Fedone. Sì, io dicevo giusto due parole per evidenziare, il cavo non passa, vabbè. Per evidenziare insomma anche un po' la direzione che volevamo tenere stasera, scusate, ok, la direzione che volevamo tenere stasera, che voleva evidenziare anche un po' il fatto che questo referendum rientra in un disegno generale di questo governo e della sua leva autoritaria, e che non lo fa solo da un punto di vista di repressione quanto più anche da un punto di vista proprio di formazione, perché la formazione di che si vuole mettere nello Stato, che il governo di oggi vuole mettere nello Stato e nella società di oggi, è una formazione che abitua a dover sottostare alle regole e diciamo il modo in cui si impone il governo stesso, e quindi non solo più reprimere l'eventuale dissenso, ma far sì che il dissenso non ci sia. Si vogliono negare spazi di democrazia e discussione diretta, si vuole dare una negazione di un pensiero critico, e tutto questo si mette in un sistema dove il giovane è quello attaccato. Parliamo molto di under 30 e dei re, perché chi è under 30, chi è giovane, specie chi è proprio ancora nel percorso formativo, è colui che deve essere attaccato al giorno d'oggi, perché si deve costruire quella forma di giovane che deve essere abituato a ingurgitare nozioni per poi andare a lavorare, ok, e non dare altri scopi alla propria vita. E riconosciamo come questo disegno si faccia vedere sempre di più, perché appunto ha prima nominato anche Darsi, il decreto Caivano rientra perfettamente in questo disegno, come lo vuole fare anche questo referendum, perché comunque riguarda in qualche modo, anche in maniera allargata, a quella che può essere una pressione del potere esecutivo politico sulla società. E quindi insomma noi crediamo che la leva che sta venendo fatta ai danni dei giovani, della società in generale, e mai in particolare ai giovani, da parte del governo, da un punto di vista di suo programma politico e anche di questo referendum qua, sia una delle cose principali, perché naturalmente è la formazione che vogliono imporre al futuro della società che può cercare di permettere a loro di avere un popolo che sia accondiscendente con tutto e che rivede in sé solamente la funzione di svolgere alcune funzioni, quindi lavorare, quindi essere d'accordo con quello che gli passa davanti e soprattutto di non sviluppare un'autocoscienza. Comunque ora lascio la parola all'avvocato Aurora. E la prima domanda che ponevo era comunque di partire un po' dalla legge, da quello di cui si parla del referendum, e magari in che modo questo referendum effettivamente, di come si dice molto, permette alle pressioni politiche dall'esecutivo e verso il giudiziario, e come effettivamente l'autogoverno del giudiziario venga minato, ecco. Allora, buonasera intanto, grazie per l'attesa perché so che insomma è tardi per tutti, però è andata così. Intanto non per deludervi, ma e non per contraddirvi, però devo dire che questa riforma, che questa modifica che stanno facendo avrà sicuramente per forza effetti pesantissimi, soprattutto sul futuro e sulle giovani generazioni, ma purtroppo non è rivolta soltanto a voi, è rivolta anche alla gente purtroppo della mia età, che per carità patiremo ancora meno di voi, però per meno tempo, però insomma anche noi ci avremmo ancora voglia, voglio dire, di non campare proprio male nell'ultima parte della nostra esistenza. Ecco, il punto fondamentale, allora io non voglio farvi non vi faccio una lezione tecnica, perché avete sentito, credo, dappertutto oramai anche questi alti lai, no, sulla riforma della giustizia. Allora, da una parte c'è la destra che fa una battaglia che è assolutamente inesistente, poi non ha nessun aggancio concreto a quello che è la riforma, perché dicono con questa riforma non ci saranno più i giudici che possono fare quello che vogliono, i giudici continueranno a fare quello che vogliono, non ci saranno più i giudici che scarcerano i manifestanti, questi sono i grandi lie, no, che fa il governo, non ci saranno più i giudici che bloccano il ponte sullo stretto, non ci saranno più i giudici che rompono le balle perché facciamo i CPR in Albania. E questo è il loro programma, questo è quello che dicono, e accompagnano questi slogan all'idea di una giustizia più efficiente, più veloce, più vicina ai cittadini, eccetera, col fatto che finalmente le parti nel processo diventeranno uguali, ci sarà il giudice terzo e il giudice separato, il PM, no, che farà l'avvocato dell'accusa, ecco, all'americana, per capirsi, li vedete i film, no, in TV. Allora, questa rappresentazione è assolutamente farlocca, perché in realtà la riforma della giustizia di Nordio, questa su cui andiamo a votare e a votare no, per non confermare questo progetto, ha un unico tema, che è quello falsamente della separazione delle carriere, cioè del dividere i magistrati giudicanti dai magistrati requirenti, che è una cosa che già nei fatti, nelle funzioni, esiste, perché quando, per capirsi, gli avvocati, adesso avete visto che c'è anche una parte di avvocati che si sono definiti avvocati di sinistra per il sì, no? Tra cui anche alcuni storici che hanno difeso il movimento, che dicono è una riforma garantista, cioè la divisione, la separazione delle carriere è una forma di garantismo, perché dice finalmente che il PM non è un giudice terzo, non è indipendente, ma è una parte processuale. È una stupidaggine, lasciatemelo dire, enorme, perché 20 anni, 30 anni fa, quando io ho iniziato a fare l'avvocato, effettivamente i PM e i giudici li vedevi una volta fare il giudice, una volta li vedevi fare il PM, poi ritornavano a fare il PM, poi ritornavano a fare il giudice. Oggi non è più possibile. Si può cambiare una volta sola, nei primi 9 anni, 10 anni, e non ci sono più le porte girevoli come una volta. Si resta quello che si è, quindi se il tuo primo incarico è da PM e passi a giudice, nei primi 10 anni poi resti giudice, resti giudicante, e questo è il primo dato. Quindi è una battaglia che in realtà non ha più nessuna funzione, perché non c'è più questo passaggio. L'altro elemento che invece io credo sia molto più pesante è il fatto che invece avere oggi nel sistema italiano, non siamo in America, non siamo in un altro paese, nel sistema italiano un PM che diventa l'avvocato dell'accusa all'americana con un suo consiglio superiore della magistratura, perché dividono i due, fanno un consiglio superiore della magistratura per i giudicanti e uno per i requirenti. Quali saranno i consigli superiori della magistratura? I due consigli nella riforma non hanno più le funzioni disciplinari come adesso, ma hanno le funzioni di gestione, carriere, trasferimenti, eccetera, eccetera. E come fa un PM a fare carriera? Come fa un PM a fare carriera? Facendo tanti arresti, ottenendo tante condanne, facendo le indagini, quelle che fanno scoop giornalistico, le mega indagini, alla Gratteri, per capirsi che oltretutto abbiamo la sfiga che vota no e che ci fa campagna elettorale negativa, secondo me, perché uno che vede Gratteri dice aiuto. Quindi il problema fondamentalmente è questo, che a me, io non so come un avvocato, come un difensore, possa pensare positivamente un PM staccato dalla giurisdizione che fa una sua carriera in base a questi elementi. A me francamente, io non dico che adesso siano democratici, non è questo il punto, ma sicuramente non andremo in meglio, ecco, mettiamola così, non andremo in meglio, perché avranno sempre più interesse a ottenere dei provvedimenti restrittivi, a ottenere dei risultati, e i risultati per loro sono condanne. Questo è la verità. Questo è un elemento. L'altro elemento è quello del potenziamento dell'autodisciplina, della disciplina dei giudici. Perché ovviamente voi sapete che c'è questa cosa che si sono inventati della rifa, no? Del sorteggio dei magistrati, che è anche questa è una cosa pazzesca, perché se tu pensi che un organo costituzionale di autogoverno della magistratura viene estratto a sorte, viene da ridere a pensarci un attimo, viene da ridere. La prima reazione mia è stata veramente, ma siamo matti, cioè cosa vi ha preso? Perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Che questo serva a risolvere il problema delle correnti, del malaffare, è assolutamente risibile. E c'è un piccolo particolare, che l'estrazione a sorte funziona secca per i giudici, quindi ci sono x migliaia di giudici, uno a casaccio, uno qualunque, che magari si occupa, che ne so, di solito di, non lo so, di confini, viene cacciato al CSM, vai tu a regolare la carriera e i piani, anche i trasferimenti, eccetera, eccetera, per quanto riguarda la gestione dei tribunali. E tra l'altro la gestione dei tribunali non viene più coordinata, perché non è più dentro il CSM, non ci sono più i magistrati requirenti, quindi questi due CSM non si parlano neanche, e però devono gestire evidentemente insieme i tribunali, quindi è una cosa che non sta nel cielo in terra. Però la rifa funziona solo per i magistrati, perché i membri laici, i famosi membri laici, che sono presenti sia nel Consiglio Superiore della Magistratura dei PM, sia in quello dei magistrati giudicanti, e anche nell'Alta Corte di Giustizia, che è l'altro organismo che viene fatto, sono estratti a sorte, ma in maniera temperata, è un'estrazione a sorte temperata, diciamo così, perché in realtà sono questi soggetti che vengono individuati, nominati preventivamente dal Parlamento, c'è una lista, e il Parlamento li determina ovviamente come a maggioranza, quindi chi governa indica i nomi di questi avvocati o professori universitari o studiosi di diritto che diventeranno membri laici, e tra questi nomi vengono estratti a sorte i membri laici che poi diventano effettivi. Quindi capite che non è la stessa cosa, perché in realtà quelli sono scelti. Tra X ne scelgono 10, ok? Però sono scelti, non sono sorteggiati a casaccio. Allora, se tu metti dentro un'assemblea di condominio, ci metti 4 persone che hanno un progetto, dicono vogliamo fare il riscaldamento autonomo, e gli altri ci vanno alla spicciola e non sono d'accordo, non si sono mai visti, non si sono mai parlati, mi pare chiaro che i 4 governano, no? Cioè è una legge naturale, voglio dire normale, per cui se c'è un gruppo già organizzato è evidente che gli altri, quelli che sono finiti lì a casaccio, in qualche maniera si adegueranno, decideranno se stare con chi governa o no. Questa alla fine è la situazione. Tenete presente che tutta questa manfrina che fanno sulla i giudici politicizzati e bla bla bla, dentro il CSM governa la destra, cioè c'è la corrente maggioritaria che è dentro il CSM è magistratura indipendente, che è una corrente di destra. Quindi non è che c'è lì chissà che... Infatti vedete che ogni tanto succedono quelle cose per cui interviene Mattarella o interviene il vice, no? Che tra l'altro è uno designato dalla Lega, quindi non è che è amico mio, anzi per niente, pur essendo padovano vi assicuro che non è affatto amico mio. E lui ha detto delle cose, ha dovuto anche un po' frenare delle volte, ma poi l'inciuccio tra la politica e il malaffare, ovviamente, se dobbiamo ripulire da qualche parte, forse andrebbe ripulito prima di tutto la parte della politica. Tenete presente che in questo momento stanno rientrando alcuni in funzione, alcuni dei giudici che erano presenti al famoso Hotel Champagne, no? Perché erano alcuni sono stati riabilitati, insomma erano in quel periodo erano parlamentari e quindi la politica li ha salvati e non hanno dato l'autorizzazione a procedere, quindi tecnicamente possono rientrare a lavorare e a fare i giudici. Quindi capite che il problema, insomma, non è né mio né tuo e neanche di Fedone, è evidentemente altra la problematica e l'inciuccio, no? Che in magistratura, come in tutti gli altri settori, compreso l'avvocatura, ci stanno, ci sono. Allora, questo è l'inquadramento generale di quello che vogliono fare. A noi cosa interessa tutto ciò? Perché alla fine diciamocelo, i magistrati non ci stanno tanto simpatici, cioè non sono simpatici a me che ci lavoro e che magari qualcuno di decente lo conosco, devo dire anche la verità, insomma qualcuno di passabile, qualcuno che fa qualcosa di più democratico di altri c'è, ma sicuramente non sono i miei fratelli, mettiamola così. Non è che noi siamo schierati a difesa della magistratura. Io faccio parte dei giuristi democratici e noi stiamo lavorando per il no in maniera molto compatta, molto, molto decisa, perché in realtà il problema non è difendere i magistrati, è difendere la tutela dei diritti, è difendere i diritti che loro stanno mettendo in discussione e vogliono sostanzialmente ridurre la situazione a una sottoposizione a una minorità, diciamo così, del potere giudiziale, ma del potere giudiziale di controllo su di loro e di controllo e di tutela dei nostri diritti. Perché loro di cosa parlano? Parlano del fatto che scarciano i manifestanti, parlano del fatto che bloccano i CPR in Albania. Questi sono i loro problemi, non con chi mangia il PM, con chi beve il caffè. Non è quello il problema, non è quello il problema, ve lo posso assicurare, perché io che faccio l'avvocata da tanti anni, vi assicuro che il caffè e il pranzo insieme se lo fanno PM, magistrati, avvocati, io no, però normalmente è così, normalmente è così. Quindi c'è questa... c'è un brutto clima, che è un'altra cosa che mi fa pensare, che deve far pensare molto. In tribunale c'è nei tribunali c'è un clima bruttissimo. Le camere penali, che sono per il 90%, 80%, non voglio dire una, governate da maggioranze di destra, stanno creando veramente l'impossibilità di discutere e di fare azioni e anche iniziative pubbliche per il no. Hanno fatto addirittura una protesta al CNF, al Consiglio Nazionale Forense, per impedire che all'interno dei tribunali ci possano essere assemblee per il no. Quindi c'è un clima, hanno sbattuto fuori avvocati penalisti che erano iscritti alla Camera Penali, che hanno espresso pubblicamente il loro parere per il no. Cioè c'è proprio un brutto clima, cioè, dovete vedere, cioè, io che ci lavoro, che nelle chat, nelle mailing list, eccetera, è un continuo di pressioni di questo e di quello. È una cosa, e quando... Cioè, e ti rendi conto che evidentemente ci tengono tanto a questa vittoria. Un motivo c'è, e non è sicuramente che sono contro i giudici, non è quello il problema, è che hanno bisogno di ridurre la tutela, di ridurre la possibilità di tutela che noi abbiamo. E credo che questa sia la parte più importante. Sia la parte più importante. Non è una questione di simpatia o antipatia per i magistrati. La questione è che senza neanche il controllo giudiziale noi siamo fritti. Noi siamo fritti perché alla fin fine tutto quello che continuano a sfornare, che è palesemente incostituzionale, palesemente contrario ai principi di legalità, ai principi di parità, ai principi di uguaglianza, ai principi di non discriminazione, eccetera. Tutto quello che stanno sfornando da quando sono andati al governo a oggi, per carità, non è che quelli che c'erano prima avessero fatto, però insomma, diciamo che la svolta autoritaria del governo di destra è evidente a tutti. In questi giorni stiamo parlando dei decreti di sicurezza, stiamo parlando del fatto che adesso per le manifestazioni, per il mancato preavviso delle manifestazioni, ti snaccano delle sanzioni amministrative che ti ammazzano, che era meglio se ti facevano il processo penale alla fin fine. Quindi capite che siamo in una situazione veramente pazzesca. Questo centrodestra è riuscito a ingolfare le carceri, persino gli istituti di pena minorile. Gli istituti, siamo arrivati al punto che c'è il sovraffollamento negli istituti di pena minorile, grazie al decreto Caivano e a tutto quello che sappiamo rispetto alle Maranza e tutto quello che voi conoscete meglio di me. Quindi c'è una situazione che oggettivamente noi come legali non possiamo far altro che puntare i piedi, che cercare di sollevare questioni, che cercare di bloccarli. Se abbiamo dei giudici asserviti, dei giudici che non hanno più potere, credo che abbiamo maggiori difficoltà. Non è che sto dicendo che adesso è facile, per carità, però avremo maggiori difficoltà, ancora di più di quelle che abbiamo adesso. E credo che questo per noi sia importante. E vi faccio altri due esempi velocissimi per farvi capire dove stiamo andando. Non solo vogliono depotenziare i giudici tramite il controllo, diciamo, del loro lavoro, alla fine dell'organizzazione e delle loro possibilità anche di organizzarsi, di far carriera, eccetera, eccetera, ma stanno anche liberando, tra virgolette, alcune azioni legali che possono essere fatte senza i giudici. Vi faccio un esempio concreto: gli sfratti di polizia che hanno inserito nel vecchio decreto sicurezza possono essere fatti direttamente dalle forze dell'ordine e poi eventualmente convalidati. Lo sfratto di polizia che era previsto inizialmente solo per le prime case, c'era questo discorso se la casa era l'unica casa del proprietario, diciamo così, adesso lo stanno estendendo e quindi nel nuovo pacchetto di sicurezza è esteso a tutte le occupazioni e quindi gli sfratti di polizia senza giudice, senza controllo giudiziale, fatto direttamente dalla polizia, poi magari il giudice non lo convalida, facciamo finta anche che il giudice non lo convalida e dice no, non va bene, ma chi è che ci rientra là dentro? Cioè, diciamolo, qual è il sistema? Due, adesso sempre sul tema degli sfratti c'è una proposta di legge leghista che prevede per gli sfratti per morosità, anche per gli sfratti per morosità, che non sia più necessaria la convocazione in giudizio. Quindi viene fatto lo sfratto per morosità con un atto dell'avvocato, diciamo così, del proprietario, e se tu hai qualcosa da dire, perché magari hai pagato o perché c'hai un'eccezione o cosa, fai tu l'opposizione. Capite? Si inverte la cosa. Prima ti sfratto, se tu non hai il tempo, l'avvocato, i soldi, la prontezza di spirito e non sai come organizzarti, sei sfrattato, ok? Se no devi fare tu la convalida, quindi neanche su quello c'è la tutela giudiziale. E voi sapete che per gli sfratti per morosità, per esempio, il fatto è normale che viene dato il cosiddetto termine di grazia, no? Un termine per sanare la morosità, per evitare lo sfratto. E poi ci sono tutte. Per cui questo è un altro coso in quella direzione. Vi faccio un ultimo esempio e vado contro la mia categoria. Io non ho mai fatto un recupero dei miei crediti, mai, ho fatto molto male, però non l'ho mai fatto. Invece gli avvocati lo fanno il recupero dei propri crediti, i clienti che non pagano, eccetera. Allora normalmente tu devi fare devi andare all'ordine, farti considerare congrua la parcella, eccetera, eccetera, andare dal giudice, normalmente dal giudice di pace, e farti emettere il decreto ingiuntivo, fai il decreto ingiuntivo e poi se il debitore dice non è d'accordo, fa l'opposizione, cioè giudizio, eccetera. E già il decreto ingiuntivo è così. Adesso c'è addirittura una promessa del governo agli avvocati e altri professionisti, ma in particolare agli avvocati, di rendere possibile l'ingiunzione di pagamento direttamente all'avvocato. Quindi io che avanzo i soldi a te, perché io lo so che a te ti ho difeso e non mi hai pagato, ti faccio il decreto ingiuntivo io e tu, se vuoi, fai l'opposizione e poi il giudice vedrà. Capite che è tutto un meccanismo di depotenziamento delle tutele, non soltanto per noi, ma per tutti i cittadini, che è veramente incredibile. E che è questa la linea di questo governo, che è quello di depotenziare i controlli su di loro innanzitutto, che è quelli a cui tengono di più, e di potenziare la tutela dei nostri diritti, di tutti, giovani e vecchi. Ovviamente è più grave se lo fanno con i giovani, e sono d'accordo con voi. Allora, io vorrei fare una domanda. Partendo da, come dici tu, questa riforma porterebbe sempre meno tutela verso non l'unica componente militante, non l'unica componente giovanile, ma in un clima generale, un potenziamento di tutele sicuramente classista, razzista, e che naturalmente prende come grosso attacco una componente militante e lotta di movimento. E questo, come dicevamo prima, noi parlavamo di giovani, ma è inteso a livello globale, letteralmente, vediamo proprio un clima che sta perfettamente nella dimensione di quello che è questo referendum, quindi di depotenziamento della voce del cittadino e della cittadina, o sopruso di legge, quindi praticamente una libertà di polizia generale, nel senso la polizia come mano del governo fa un po' quel cazzo che le pare alla fine dei conti. E come pensi che questo stia all'interno di tutta la dinamica violenta da parte del governo, quindi repressiva, oppressiva, e che c'è qua in Italia, ma come c'è in Ungheria, come c'è in Francia, come c'è in America, come c'è a livello mondiale? Come sta all'interno di questa dinamica globale anche questo piccolo nostro pezzetto, secondo te? Ma io credo che sia abbastanza vistoso quello che sta avvenendo, e anche la progressione che questo governo sta facendo sulla questione soprattutto della violenza di Stato. La legittimazione della... siamo in un momento in cui veramente abbiamo sul piano del diritto penale due scenari completamente diversi a seconda che si indossi o non si indossi la divisa. Cioè, noi abbiamo un diritto penale del nemico, il nemico è lo straniero, il nemico è il maranza, il nemico è il giovane, il nemico è lo studente, il nemico è il contestatore. Il nemico è chi fa le manifestazioni, i cortei, chi fa il blocco in autostrada, eccetera, chi manifesta per la Palestina, e abbiamo questa pessima approvazione di ieri, no? Sempre sulla questione sulla libertà di espressione e rispetto alla questione del sionismo o meno, abbiamo tutta una campagna quindi di criminalizzazione pesantissima, e ci stanno toccando le cose più importanti, perché quando toccano il diritto a manifestare e il diritto a esprimere le proprie opinioni, ci hanno azzerato la Costituzione, ci hanno azzerato i diritti fondamentali, ci hanno azzerato la possibilità proprio di definire una democrazia, perché ve lo dico proprio all'estremo, io ho difeso i manifestanti che erano stati imputati di devastazione e saccheggio di tutto quello che era avvenuto durante il G8 a Genova, no? Nel 2001, e in la sentenza del Tribunale di Genova si apriva con almeno 30 pagine sul diritto a manifestare e sull'importanza giuridica del diritto a manifestare nel diritto italiano, nel diritto europeo e nel diritto internazionale. Noi oggi sentenze come quelle, con quello che sta avvenendo, non le vedremo mai più, mai, mai più. Poi, attenzione, non è che mi piacesse la sentenza di Genova, attenti, perché poi la sentenza di Genova aveva dato delle condanne incredibili, no, quindi non è che sto osannando i giudici, però sto dicendo che neanche quella parte lì potremo mai più utilizzare da nessuna parte. C'è il diritto dell'amico, c'è il diritto dell'amico, e l'amico indossa la divisa. Che poi non necessariamente deve indossare la divisa, perché adesso sapete che possono girare armati anche quando non sono in divisa, quindi c'è un diritto speciale per le forze dell'ordine, per le forze di polizia, che se soltanto le tocchi, aiuto, ti becchi 2 anni, anche soltanto se hai storto il mignolo, che normalmente si storgono sempre i mignoli, ve lo posso assicurare, ma non soltanto questo, c'è proprio la pretesa, e l'hanno inserito, dello scudo penale, no? Del fatto che non siano neanche iscritti nel registro notizie di reato, che poi è diventato una cosa a parte, un registro a parte, e non è soltanto per loro, perché poi c'è Mattarella che ogni tanto gli cerca di mediare, insomma, poi alla fine firma tutto, quindi siamo sempre lì. Però il concetto fondamentale è che stanno cercando e cercheranno e lo faranno prima o poi sicuramente l'esenzione assoluta per le forze dell'ordine di qualunque tipo di indagine nei loro confronti nel momento in cui operano violentemente in maniera illegale. Chi è che degli avvocati dello Stato con il nuovo CSM andrà a indagare i poliziotti? Quanti faranno carriera così? Secondo voi che cosa succederà? Quanti avranno il coraggio di indagare un poliziotto come quello di Rogoredo? Quanti avranno... ma quello di Rogoredo diciamo che è ingestibile, e per carità, hanno dovuto... gli è capitata la sfiga che è successo proprio in questo momento, diciamo. Però, attenzione, non è isolato il poliziotto di Rogoredo, perché i suoi colleghi lo hanno coperto finché hanno potuto, perché la pistola sono andata a prenderlo, perché sapevano tutti che era così, eccetera, e perché sappiamo tutti che poi alla fine in alcune situazioni ci sono situazioni di questo tipo che ogni tanto emergono in maniera... Io ricordo nella mia zona anni fa c'erano i carabinieri di Montagnana che ce l'avevano per abitudine di buttare i migranti nel canale. Questo c'è stata un'indagine su questo, poi se la sono cavata tutti quanti, per carità, però voglio dire, ci sono dei meccanismi e delle cose che rivelano tutta la brutalità e la pochezza di chi è convinto di poter, dello strapotere che gli attribuisce la divisa, che tante volte non hanno neanche colore politico, hanno addirittura proprio l'arroganza, no, dell'essere il boss con la divisa e comunque di poter fare quello che vogliono. C'è un'altra cosa, se non avete altre domande voi, c'è un'altra cosa che... che io ci tengo ad aggiungere, perché è una delle cose che non si sa, che non si dice, ma che è importante dire alla gente, ditelo alla mamma, al papà, agli zii, ai nonni, eccetera, che c'è il piccolo particolare che il costo di gestione annuo del CSM che c'è adesso è 50 milioni di euro l'anno. Con questa riforma ne fanno 3 organismi, un CSM per i PM, un CSM per i giudici e l'Alta Corte di Giustizia, che è quella disciplinare. Anche là non vi sto a dire le cose tecniche, se volete ve le racconto, ma soltanto per dirvela, per dirvi la cosa più incredibile è che l'Alta Corte di Giustizia, che sarebbe l'organismo disciplinare, no? per i magistrati, è organo disciplinare di primo e di secondo grado, cioè se la ti fanno il processino di, fanno ai magistrati il processino disciplinare e ti danno torto, ti fanno la sanzione, tu puoi ricorrere, ma puoi ricorrere sempre di fronte all'altra corte, in un'altra composizione, un altro collegio. Ma tra l'altro metà di questa riforma non è ancora scritta, perché tutte le leggi attuative e le modalità di funzionamento saranno determinate da leggi ordinarie, e le leggi ordinarie sapete come le fa, chi le fa ovviamente la maggioranza. Hanno fatto una riforma costituzionale che non si è mai vista da nessuna parte, una velocità del genere, perché hanno posto la fiducia e hanno dichiarato che non era possibile emendarla, neanche per i loro componenti c'era la possibilità. Cioè, una riforma costituzionale così non sta né in cielo né in terra. Allora, dice, torno ai 50 milioni di euro, sono 50 milioni di euro, se hai tre organismi minimo ne hai 150 milioni di euro da tirare fuori, e per senza sempre che non decidano di fare i concorsi separati per i PM e per i giudicanti, e la formazione separata, perché noi avvocati come i magistrati abbiamo la formazione obbligatoria, quindi ci saranno tutte queste maggiorazioni di spesa che saranno veramente importanti e significative. Ogni tanto a Nordio gli fanno qualche domanda su questo e lui una volta dice una cosa, una volta dice un'altra, non si sa mai, dipende da quante ombre ha bevuto forse, però il concetto di fondo è che non si sa veramente quale sia il percorso che in concreto andranno a fare, e quindi conoscendoli non possiamo aspettarci dei miglioramenti, ecco, rispetto a quello che hanno previsto. 150 milioni di euro, e vi faccio un esempio concreto per capire. Allora, noi normalmente, non so quanto voi frequentiate i tribunali, spero poco per voi, però nei tribunali, nei cessi non c'è carta igienica, il personale è tutto buona parte precario. L'altro ieri a un'operatrice ho chiesto: ah, come va? Guarda, non lo so, siamo nella merda, perché tra 4 mesi scadono i contratti e ancora non ci hanno stabilizzato, però vogliono il piano ferie. Ma se, che piano ferie ti faccio se non so neanche se sono occupata in questo posto? Questo per capirsi. Non abbiamo il personale, non abbiamo i magistrati, abbiamo un sovraccarico, perché quando fanno le pene, gli aggravamenti di pena, per dire, allora io mi occupo di solito di violenza contro le donne, lavoro col centro antiviolenza, quindi mi trovo molto spesso tra virgolette dalla parte giusta, no? Nel senso che sono dalla parte della vittima, eh? Però che cosa, a parte che neanche in questa funzione riesco ad andare d'accordo con i PM, con i magistrati, ma non importa, il punto è che questi processi, quando loro aggravano le pene, che cosa determinano? Determinano una lungaggine dei processi pazzeschi, perché i processi con le pene più pesanti devono essere fatti dal tribunale collegiale, tra i giudici. Per fare i collegi ci mettono una vita, non ci sono i magistrati, li devono togliere dal monocratico, dalle altre udienze, sostanza. I processi per maltrattamenti in famiglia iniziano mediamente minimo due anni dopo di una denuncia, cioè la donna o se n'è andata di casa, è riuscita a fare altro, o è tornata e sta prendendo un sacco di botte, è tornata, ha abbassato la testa e ovviamente rimette la querela, quindi neanche dal punto di vista delle vittime di reato c'è una, come si può dire, un'utilità nel loro modo di fare le cose, perché alle donne non interessa niente che i mariti vengano puniti con pene più pesanti, gli interessa uscire da una situazione di violenza, e invece il meccanismo diventa una cosa inenarrabile che non finisce mai, non finisce mai, per cui alla fine queste donne le ritirano le querele perché non ne possono più. L'altro giorno al centro antiviolenza una donna è venuta davanti a me, si è seduta, si è messa a piangere, ha detto: mio marito ha fatto 3 anni di galera, 2 anni in galera e 1 anno ai domiciliari con lei per maltrattamenti vecchi, dopodiché ha continuato a picchiarla eccetera eccetera, adesso lei se n'è andata di casa, l'ho querelato eccetera eccetera, ma la prima cosa che ha detto quando si è seduta davanti a me è stata: io non voglio più mettere piede in tribunale, non voglio più mettere piede in tribunale, perché è un sistema che ogni volta significa rivitalizzazione, dover riraccontare tutto, è una cosa pesantissima. Allora voi capite che quando loro buttano via 150 milioni di euro per comandare, perché questo è il loro problema, mentre la gente che ha i problemi non ha una risposta, mentre i processi diventano quello che diventano per anni e anni e anni, mentre ci processano per ogni sputo che facciamo a terra, signore Dio, non è possibile. Non è possibile, bisogna metterci uno stop. Per cui questo no al referendum è importante, perché è un dirgli: non potete andare avanti così, non potete gestirci la giustizia contro in questa maniera, perché è questo che fanno. Ci gestiscono, ci buttano addosso la giustizia soltanto in funzione punitiva, in funzione preventiva, perché non possiamo protestare, perché non possiamo fare quello o vivere come vogliamo, e io credo che questo glielo dobbiamo impedire, questo è il punto fondamentale. E, vabbè, la domanda che volevo fare io era anche un po' stile 1984, però è un libro che nel tempo diventa sempre più realistico, quindi allora io volevo chiedere, già in un'ottica dove comunque stanno provando a modulare la società sia nella formazione, nella scuola, anche nel lavoro, come una società che segue un certo disegno, sia da un punto di vista di oppressione, ma anche nel modulare i singoli che compongono la società. E, cioè, questo governo penso che sia il primo da decenni che cerca di mettere in piede leggi, mette in piede delle leggi, decreti di legge, disegni di legge, che di fatto rendono illegali dei pareri, delle opinioni. Rendono illegali delle opinioni. No, è una cosa che secondo me... cioè, è uno dei pochi governi da un bel po' di anni che fa questa cosa. Che sia rendere antisemitismo un parere contro uno stato di genocida, o comunque anche altri esempi, o che sia anche nella pratica punire una persona che dice vulitale antifascista, cioè io volevo anche porre un attimo l'interrogativo sul, cioè in un'ottica dove passa il sì, in un'ottica dove il risultato rispetta il disegno che il governo sta cercando di costruire, cioè può arrivare realisticamente anche ad un punto dove il punto di repressione non solo del dissenso, ma anche dell'idea, dell'esistenza di una coscienza, possa arrivare ad impedire cose come avere il parere, esprimerlo nel privato, una repressione dell'esistenza dei singoli e degli individui, sia degli studenti nella formazione, nel lavoro, in qualsiasi contesto. Se hai capito qualcosa dalla mia domanda? Io spero che in questa situazione comunque vada il referendum, esistano degli anticorpi abbastanza potenti, e credo che mi pare insomma che ci siano dei segnali anche in questo senso, perché alla fin fine, sia per quello che è avvenuto l'anno scorso con le manifestazioni rispetto a Palestina, e sia per quello che sta iniziando un po' timidamente, devo dire, a manifestarsi anche rispetto a questa nuova situazione di guerra, ma anche c'è una difficoltà ovviamente nel, però insomma mi pare che finora anche nel nostro piccolo di legali siamo sempre riusciti in qualche maniera a bloccare il peggio, ma vi faccio un esempio concreto che si lega proprio alla questione dell'intromissione nella vita proprio da parte del governo, ed è l'esempio che perché a molti questa cosa dei PM, no, che fanno solo i PM non disturba tanto, e devo dire che per un certo periodo poteva essere anche comprensibile. Io ho avuto un flash su questa cosa nel momento in cui, non so se adesso 3 anni fa più o meno, 3-4 anni fa, c'è stato quella circolare del ministero che si è svegliato a un certo punto sulla questione del riconoscimento dei bambini e delle figlie omogenitoriali. Vi ricordate? È venuto fuori il casino sul fatto che hanno impugnato. Allora, quei PM che hanno impugnato e che hanno obbedito alla circolare del ministero hanno impugnato degli atti che loro hanno sempre avuto a disposizione, perché nel momento in cui viene registrata la nascita l'ufficiale dello Stato civile manda il documento in procura, c'è sempre il controllo giudiziale, e per 10 anni i PM non hanno avuto niente da dire, hanno preso e probabilmente l'hanno ficcato in un cassetto, in una scatola, che ne so, e se ne sono fregati. È arrivato la circolare del ministero e tutti, ma tutti, compreso io ho presente uno insomma che era pubblico ministero a Padova, che adesso dirige la procura a Belluna, che è un magistrato democratico, uno di magistrati democratici, anche lui ha detto ma io non posso fare nient'altro, non posso fare nient'altro perché la legge è così, la circolare dice così, io che devo fare? E quindi impugno. Questo è quello che a me ha fatto scattare proprio quella, ho detto ecco, questo vogliono fare nel momento in cui l'attività anche di chi deve promuovere l'accusa, di chi è, viene incanalata in una determinata maniera. Tenete presente che non ce n'è in realtà bisogno, perché già con la legge Cartabia è previsto che sia il Parlamento a determinare i criteri di priorità di trattazione delle materie penali, per esempio, che ovviamente determinano, che ne so, sulla mafia, terrorismo, codice rosso e via dicendo. Il Parlamento deciderà anche che altre tematiche, sicuramente la violenza giovanile verrà sicuramente attenzionata, come dicono i carabinieri, in maniera particolare, e quindi ci sono questi criteri, ci sono già, verranno accentuati con una gestione più autoritaria, diciamo così, ancora, dell'attività delle procure, dei tribunali, eccetera. Io credo che questo sia lo scenario che loro vogliono imporre. Speriamo non riescano a farlo legislativamente, anche se molti elementi ci sono già, tenete presente che ci sono già. Il problema è riuscire, come sempre, a sviluppare degli anticorpi che siano positivi e in grado di controbattere a questa situazione. Ovviamente voi con i mezzi che usavo anch'io da piccola, e invece io lo farò nelle aule di tribunale, perché così è. Allora, io ti faccio un'ultima domanda, poi chiedo se a qualcuno ha domande, non si faccia timori. E so che arriverà una domanda lì, ho un'impressione. E allora, adesso questo, come abbiamo messo in ottica, questo è un referendum che è perfettamente in linea con tutto un processo di tutta in linea con tutti i processi sociali, politici che stanno avvenendo. Ok, tutto quel pippone l'abbiamo già fatto. Però con questo referendum vediamo, secondo me, anche una polarizzazione delle persone che prima non c'era. In casi di cose estreme, come può essere questo referendum, o percepito, perché come dici tu comunque gli strumenti c'erano già, semplicemente adesso verranno effettivamente inaspriti, attuati, e esatto, se mi dire meglio tu. E c'è proprio questa cosa di polarizzarsi, come dici tu, persino Gratteri ha detto di votare, no? Che cosa vuol dire? E adesso viene definito quasi come un referendum sì, no, sì governo, no governo, Meloni. Cosa ne pensi di questa cosa, di come viene processato a livello mentale e forse banalizzato, forse semplificato questo referendum? Guarda, questa polarizzazione può avere degli effetti. Allora, dal punto di vista di conoscenza, diciamo così, no? Dal punto di vista di comprensione effettiva di quello che significa questa legge, io credo che ce ne sia veramente poca. Ce ne sia veramente poca. Lo dico anche perché, non so, parli con col vicino di casa che dice: guarda, se non me l'avessi spiegato tu non avrei capito niente. Perché è vero, non è una cosa... È difficile da comprendere qual è la posta in gioco, diciamo così. La polarizzazione ha degli effetti sicuramente negativi dal punto di vista di comprensione. Non è detto che li abbia necessariamente dal punto di vista del risultato, perché alla fin fine credo che il fatto di votare contro il governo Meloni sia comunque una buona scelta, no? Quindi tutto sommato anche, virgolette, la banalizzazione non è necessariamente negativa, anche se poi sappiamo che in realtà sono tanti che appoggiano questo governo fascista, per cui il problema fondamentale io credo sia quello di fare comprendere soprattutto che non è che non è un referendum, che il sia questo referendum, che questa legge non migliorerà affatto la situazione del cittadino in generale rispetto al sistema giustizia. E attenti, il cittadino vuol dire tutti, vuol dire non soltanto, ripeto, noi che contestiamo, vuol dire tutti, compreso quelli che vengono fermati ogni 3x2 perché guidano in stato di ebbrezza, o perché oramai io in tribunale vedo che i processi o sono per violenza sulle donne, quelli più importanti, o sono per droga, ovviamente droga, perché quello è il massimo del numero dei reati che vengono commessi, droga e dintorni, tutto l'indotto, diciamo, del proibizionismo, e tanta guida senza patente, guida in stato di ebbrezza, eccetera, e la gente comincia a non poterne più anche di questa risposta, che è comunque sempre solo penale. e per dire già soltanto il decreto penale di condanna per la guida in stato di ebbrezza ti comporta tutta una serie di difficoltà, spese eccetera eccetera, che molti cittadini non hanno mai avuto prima, perché non avevano, tranne farsi tante ombre, non facevano reati, no? A fin fine bevevo soltanto, quindi. E adesso hanno un impatto con la giustizia anche loro, anche questi soggetti che alla fin fine sono, tra virgolette, insomma, dal punto di vista della valenza criminale, gran poco. Però così è la cosa. Credo che ci sia una diffusione veramente molto ampia della criminalizzazione. E questo dobbiamo riuscire a spiegarlo, dobbiamo riuscire a farlo capire che non è soltanto un problema del politico e della politica, e questo è sicuramente la parte più importante, ma è un impatto generale che la giustizia ha sulla vita dei cittadini, perché insomma alla fin fine qualche guida in stato di ebbrezza o qualche figlio che è stato pescato con le canne o qualcosa, ce l'abbiamo, cioè ce l'hanno tutti, no? Ce l'hanno buona parte dei cittadini in questo paese. E credo che comprendere queste cose e come funziona il sistema giustizia e come lo riformano in danno dei cittadini alla fin fine è importante, perché se loro quei soldi li avessero investiti in altre cose, in depenalizzazione, in assistenti sociali, in psicologici, per esempio in prevenzione reale per quanto riguarda la violenza sulle donne, cioè voi pensate che io lavoro col centro antiviolenza, abbiamo fatto una stima, hanno fatto una stima che è stata pubblicata pochi giorni fa dal centro antiviolenza, centro donna di Padova, rispetto, i finanziamenti ci sono per i centri antiviolenza, ma c'è una richiesta e un impegno importantissimo, per cui alla fin fine, facendo la divisione tra i fondi che sono stati destinati per le case rifugio e i centri antiviolenza e il numero di persone che sono state assistite dal centro antiviolenza, il ricavato, il risultato è che per ogni donna in casa rifugio è stato dato un euro al giorno dallo Stato. Un euro al giorno. Questo è il risultato. Quindi, capite? Perché è questa la realtà, facendo i conti è così. E quindi capite che buttino via a me 100 milioni di euro l'anno per determinare un certo controllo della magistratura, un certo controllo della magistratura, piuttosto che fare assistenza, fare le cose che si dovrebbero fare, insomma, è pesante. Questo va detto chiaro. Domande, riflessioni, dubbi, perplessità? Allora io i dati per quanto riguarda gli istituti minorili non li ricordo a memoria, però so che sono stati presentati credo la settimana scorsa da Antigone con un rapporto rispetto alla situazione degli IPM, e in cui appunto si è registrato per la prima volta in Italia un sovraffollamento degli istituti di pena minorili, e questo è tutto merito della politica governativa rispetto alla, ai giovani, da Caivano, ma io dico da quando sono nati in poi, nel senso dal decreto rave in poi, hanno continuato sempre a penalizzare per ogni singola condotta che veniva registrata in qualche parte d'Italia. Quindi questo è sicuramente una cosa ignobile, perché dal punto di vista penalistico, dal punto di vista della cultura giuridica, la pena per i minori è veramente, dovrebbe essere davvero, ma davvero davvero un'eccezione. E il fatto di essere riusciti a riempire gli IPM è veramente, al di là del bene e del male, è una vergogna dal punto di vista della civiltà giuridica. È una vergogna dal punto di vista della civiltà giuridica le condizioni in cui versano gli IPM. L'IPM di Treviso è una cosa inguardabile. Ci sono, per capirsi, ragazzi ovviamente che sono dai 16 ai 21 anni, 22 anni, è pieno così. I servizi igienici sono il cesso alla turca con sopra la doccia e la gratta sopra, da mettere sopra. Questo è il livello degli IPM di Treviso. Quindi sono cose che andrebbero urlate tutti i giorni, perché da queste cose, da una situazione del genere non può uscire nulla di buono, non può assolutamente uscire nulla di buono. E quindi siamo molto responsabili di quello che sta succedendo anche ai nostri ragazzi. Siamo molto responsabili tutti quanti, e lo è sicuramente in maniera pesantissima questo governo. Sulle carceri, noi abbiamo un ministro della giustizia, abbiamo il ministro Nordio, che quando è entrato in funzione, c'erano due pagine di intervista sul Corriere della Sera in cui lui spiegava che le pene, che lui è abbastanza contrario alle pene, eccetera, perché soprattutto per le persone normali, per le persone che hanno un'esistenza normale, un lavoro, una famiglia, i ricchi, i benestanti, perché uno più ha, e nel momento in cui glielo togli con una privazione della libertà, fai veramente dei danni pesantissimi, per cui lui era contro. Ovviamente è contro la pena ai colletti bianchi, ai ricchi, e credo che l'abbia dimostrato, no? In questi anni di governo. Invece per tutte le altre categorie di disagio, la risposta è comunque sempre la pena. Non parliamo poi dei contestatori, perché ovviamente quelli andrebbero forse anche peggio per lui, ecco. Però il dato fondamentale è che da quando c'è in carica questo governo e quel ministro in carcere, l'anno scorso è stato l'anno nero proprio per i suicidi in carcere. L'anno nero, sono morti. A Padova all'inizio dell'anno ne abbiamo avuti due suicidi in tre giorni. Quindi abbiamo una situazione che è soprattutto legata non soltanto all'inasprimento delle pene, ma anche alla impossibilità di qualunque socializzazione, di qualunque trattamento diciamo ordinario, quindi il lavoro, quindi i trattamenti di socialità, le attività che vengono svolte all'interno del carcere sono osteggiate in una maniera incredibile. A Padova è successo a gennaio, proprio nei giorni in cui si sono suicidati questi due detenuti. Il primo detenuto era un detenuto della sezione alta sicurezza e in quei giorni il DAP, cioè la direzione, l'amministrazione penitenziaria, aveva deciso che quella sezione, che i detenuti di quella sezione andavano tutti trasferiti improvvisamente, e quindi lì che avevano iniziato un percorso invece con di un progetto di socialità, eccetera, questi si sono visti improvvisamente da un giorno all'altro trasferire e interrompere il programma. Questo detenuto, che era anche abbastanza anziano, il giorno prima del trasferimento si è ammazzato, si è suicidato. Questo per dire che cosa comporta quello che sta facendo il DAP in questo momento è, direi, la tortura dentro le carceri, nel senso che tutto quello che può essere eliminato in senso trattamentale positivo per i detenuti lo eliminano. Vi faccio un altro esempio banale, sempre a Padova, vi parlo di quello che conosco ovviamente. C'è stato ancora, questo è successo prima, mi pare in dicembre, un altro episodio, c'è un progetto che tra l'altro è molto, molto bello, secondo me, anche lo dico anche da donna, perché è un progetto che viene curato tramite un Ponte Per, che è un'associazione pacifista, è uno scambio interculturale per cui portano dei libri in carcere per i detenuti di lingua araba, diciamo magrebini, eccetera, e portano tra l'altro dei testi preferibilmente scritti da donne per diciamo così incentivare un po' un meccanismo di rispetto e di acculturazione, insomma è un messaggio anche culturale, diciamo, nei confronti per il rispetto delle donne. E questo progetto è in corso da parecchio tempo in carcere, lì a Padova c'era la presentazione, l'assemblea, eccetera, e alla fine è saltata perché il DAP ha deciso che non potevano partecipare i detenuti della sezione dell'alta sicurezza, e quindi hanno bloccato assolutamente tutto. Tra le altre cose, nessuno dei detenuti dell'alta sicurezza era investito in quel progetto, ma però hanno fatto saltare l'iniziativa. Questo per dire che queste cose a noi che viviamo fuori possono anche fare, dici vabbè, insomma lo faranno magari più avanti, lo rinviamo, lo riproporremo, cosa. In carcere è un'altra cosa. In carcere, quando saltano questi momenti, saltano dei momenti importanti, saltano dei risultati importanti, e salta ovviamente anche un rapporto di fiducia tra i detenuti e chi lavora con loro, volontari, associazioni, eccetera, eccetera. Saltano questi meccanismi, e credo che sia veramente grave, insomma, quello che fanno. Per questo io dico che aggiungono alla detenzione la tortura, ecco, perché aggiungono una vessazione in più, che non ha un modo di vivere male e di togliere anche quel minimo che si riesce a ottenere, ad avere in una situazione di reclusione, ecco. C'è poco da applaudire. Per la realizzazione della protesta pacifica all'interno delle carceri, cioè proprio l'oggettificare i carcerati e le carcerate non più umane, ma in quanto non in quanto non consone alla tua legge, che adesso vediamo anche essere non boicottata, inasprita in funzione di non proprio toglie il carcerato, la carcerata da essere umano, ma come merda, proprio totale, allora, detta come si deve dire. Dovete pensare un attimo che cosa vuol dire questo, allora, questa introduzione all'interno delle carceri di soggetti che hanno la funzione, diciamo, di agente provocatore, no? Di spia, eccetera, all'interno del carcere. Questo determinerà dei meccanismi bruttissimi dentro il carcere, dei meccanismi di non fiducia tra i detenuti, dei meccanismi di tu sei una spia, o comunque di ricerca del soggetto. Cioè, io vi lascio immaginare che cosa vuol dire all'interno di un carcere questo tipo di decisione, questo tipo di possibilità. È veramente la resistenza passiva, l'hanno già introdotta col vecchio decreto sicurezza, no? La punibilità della resistenza passiva. Poi le estenderanno sicuramente anche al di fuori del carcere, perché è ovvio, fanno così, non prima, un passetto alla volta. Ma questa degli agenti sotto copertura all'interno dei carceri è un'idea che, cioè, io credo che creerà morti dentro le galere. Creerà morti veramente, perché ovviamente non tutti i detenuti sono detenuti soltanto per motivi sociali, ci sono anche detenuti che hanno legami forti con criminalità organizzata, eccetera. Là io non voglio neanche pensare che cosa può scatenare questo meccanismo, questo che in sé giuridicamente è un obbrobrio giuridicamente, ma al di là di quello che posso pensare io dal punto di vista della civiltà giuridica, è veramente una specie di istigazione a delinquere in carcere, eh? Cioè, è una cosa che rischia di creare delle situazioni veramente, veramente brutte. Chiedo se qualcuno ha domande, dubbi, perplessità, riflessioni, considerazioni. Allora direi che possiamo andare verso la chiusura, se per te va bene, se per tutte e tutti va bene. Top. E io penso che non ci sia tanto da aggiungere. Esatto, andiamo tutti e tutte a votare, nel senso che... Spiegate a più possibile. Spiegate il più possibile, perché la gente non lo sa che cosa succede. Quindi direi che le parole che hai detto da finora si possono, diciamo, auto non chiudere, però concludere per questo momento. E parlo da studentessa del coordinamento di Rabun, che è il coordinamento che sta qua. Anche noi all'interno delle scuole stiamo cercando di portare, nonostante adesso il clima sia, oddio, la politica, non si può assolutamente portare, non se ne può assolutamente parlare, è crimine di guerra, e più o meno, e anche noi stiamo cercando di portare effettivamente un po' di coscienza su questa cosa, perché comunque tanti e tante giovani che sono all'interno di quarte e quinte sono maggiorenni, e è capace che in questo mondo non abbiano nemmeno ritirato la tessera elettorale. Il mio padre può stare anche lì tranquillo. E quindi sicuramente la coscienza che esiste una reale necessità a votare, e che un voto può in questo preciso momento in particolare può effettivamente cambiare un po' la situazione, una situazione che va già da merda, però magari se non va ancora peggio. No, giusto per dire che anche in università ci hanno fatto un po', cioè anche in università c'è questa cosa che io adesso sono nel collettivo universitario, e noi oggi abbiamo voluto fare una giornata che partisse da un pranzo sociale, pian piano conducesse a venire fino a qua per iniziativa, e avevamo capito che facessimo un'iniziativa ufficiale anche in università, si sono impazziti, perché ma la controparte del sì, e se si deve fare una discussione ci devono essere tutte e due le parti, no? Che io dico, al di là che no, punto, cioè no, a me non importa, cioè obiettivamente mina di più la democrazia dover cercare una controparte in questa maniera che in tutt'altra. E l'altra cosa è che io dico scusa, cioè il governo attraverso la RAI, cioè l'ha detto anche Usi Grai, il sindacato, no? Attraverso i suoi canali, i suoi modi, sta cercando di dover dare la controparte del sì, allora io non te la concedo questa cosa, io allora dico il no. Cioè, cavolo, se voi mi imponete il sì, voi fate tanto i giusti, no? Perché poi naturalmente la destra fa sempre questo, sempre dover essere quelli che sono i giusti, sempre dover cercare capri espiatori, tutte queste cose qua. No, ma io allora, cioè, loro quello che fanno è imporre il sì da un punto di vista di informazione. Cioè, nel senso, esatto, cioè la RAI, oh, l'hanno detto anche i giornalisti, noi non potremo essere sinceri su quello che vi diremo perché siamo costretti a darvi la parte del sì. L'hanno detto. Allora io, da che pulpito io dovrei mai dare la controparte nella mia iniziativa di collettivo, organizzato, universitario, comunque gli studenti, ok, e in generale chiunque voglio andare per il no, da che pulpito dovrebbero mai pensare di dover dare la controparte del sì? Ma te lo scordi? Cioè. Sì, beh, io su questo non posso che essermi grata di non avermi fatto sciroppare un ennesimo intervento per il sì, perché ne ho già sentiti che mi bastano e mi avanzano. E insomma, alla mia età non si è più tenuti a tollerare tutto. Woof, woof, woof.